Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Parliamo di Israele, che non è un paese normale, non è un paese come gli altri. Ugo Tramballi racconta che le elezioni che ci sono state ieri, con i seggi aperti fino alle 10 di sera, si sono svolte in una bufera di pioggia, vento e fulmini che ha biblicamente spazzato il paese per tutto il giorno. Il 65% degli aventi diritto al voto è andato ai seggi, ha votato, e i risultati, come avete saputo dai radiogiornali, dall'informazione, i risultati sono molto molto complicati. Ha vinto, nel senso che ha un seggio più del suo rivale, la Tzipi Livni, il ministro degli esteri e il leader del partito Kadima, questa formazione centrista che fu fondata da Ariel Sharon. Quindi ha vinto Tzipi Livni di un'incollatura, con mi pare 28-29 seggi, ecco, sì, 28. Dietro di lei, mi confermate in regia che sono 28 seggi, sì. Dietro di lei, con 27 seggi, è arrivato Bibi Netanyahu. Dunque, Benjamin Netanyahu è un personaggio, è un ex primo ministro, e gli è rimasto in mano, quando Sharon fece questa concentrazione portando via forze anche ai laburisti, diciamo di centro-sinistra, a Netanyahu rimase in mano il Likud, diciamo l'antico, autorevole, forte partito della destra conservatrice israeliana, il partito di Begin, tanto per intendersi. E il Likud fu svuotato dall'insorgere di questa coalizione di centro-sinistra. Adesso si è rimpolpato, ha preso 27 seggi, che sono tanti, insomma praticamente un sostanziale pareggio, come si diceva all'epoca dello scontro Prodi-Berlusconi. E dopodiché la vera sorpresa è stata, infatti è questo che ha determinato poi il sorpasso, diciamo così, di Kadima sul Likud, la vera sorpresa è stata Avigdor Lieberman, che è un ebreo russofono, abbastanza giovane, nato nel 58, radicato in una parte di Nazareth, della città di Nazareth, che è sempre stata la sua vetrina politica. È un uomo molto di destra, una destra radicale, laica, è un uomo che vuole introdurre per esempio in Israele i matrimoni civili, che oggi non ci sono, ci sono solo i matrimoni religiosi. È un laico, eredita anche un po' dell'elettorato delle precedenti formazioni laico-liberali, paradossalmente, pur essendo invece fortemente di destra. È come dire nazionalista, chiede agli arabi che vivono in Israele un patto di lealtà, espone il suo partito, il suo programma a molti equivoci, c'è chi lo definisce proprio un fiero reazionario, c'è chi gli imputa di avere sollevato, come dire, il velo su una specie di tendenza così alla feroce identitaria ed etnica dentro Israele. Insomma, però prende 15 seggi, che sono veramente molti, tanto più che sono più dei seggi del partito laburista, al quale appartiene l'eroe di guerra israeliano Ehud Barak, che oggi lo dirige, che è ministro della difesa uscente, che è stato uno dei grandi protagonisti dell'offensiva di Gaza. Il partito laburista prende solo 13 seggi, è il risultato peggiore di tutta la storia di Israele. Il partito laburista non è una formazione politica avventizia, è una formazione politica storica. Il sionismo è stato in larga misura, non esclusivamente naturalmente, influenzato dalle idee dei laburisti, dei socialisti. È stata una forma di socialismo, oltre che di nazionalismo ebraico, insomma di ricerca del focolare nazionale per gli ebrei. Dovete però pensare, questa è la questione fondamentale, che Israele non è un paese come gli altri, è un paese strano, diverso, è un paese, io lo definisco da sempre, guarnigione, è un paese di pionieri, un paese che dalla sua fondazione è stato sempre in guerra, è un paese che ha la caratteristica di essere piccolo, è come un fazzoletto, l'amico e il nemico sono tutti e due al di là dello steccato del cortile, nel campo diviso da un fragile confine, ed è tutto mescolato, ed ha questa caratteristica luminosa, straordinaria, di essere, e le elezioni lo dimostrano tutte le volte, portando a una specie di ingovernabilità. Adesso poi parleremo nel dettaglio delle conseguenze per la pace, per la guerra, per i nostri pensieri, per le nostre preoccupazioni di questo voto. C'è questa caratteristica luminosa di essere una democrazia di guerra, una democrazia che pur nella guerra, pur nella battaglia testa a testa con un nemico aggressivo, insomma, perché Israele è stato oggetto di un rifiuto, no? È stata una forzatura, naturalmente, costruire un nuovo Stato, lo Stato degli ebrei nelle terre dell'ex mandato britannico, a stretto contatto con gli arabi. Insomma, una forzatura nel senso che è stato un confronto tra culture, tra civiltà, tra linguaggi. Però ecco, Israele è ancora, c'ha questa grande fiaccola, questa che la illumina, che è saper esercitare sempre, anche in periodo di guerra, la democrazia. Tant'è vero che in una situazione incandescente e drammatica hanno cacciato il presidente primo ministro per un ordinario processo di corruzione e non hanno esitato a convocare nuove elezioni. Bene, 800 24 00 24, il destino del Medio Oriente alla luce delle elezioni in Israele. Fiamma Nierenstein al telefono. Fiamma Nierenstein è parlamentare del PDL, ma è soprattutto una persona che conosce molto bene Israele, che vive e ha vissuto lì per tanti anni e che ha raccontato Israele e il Medio Oriente su molti giornali, La Stampa e adesso Il Giornale. Nierenstein, buongiorno prima di tutto. E chi sarà il primo ministro di Israele? Lo so, prevedere è una stupidaggine perché nessuno di noi è profeta e sarebbe meglio evitarlo, però siamo abituati male, siamo abituati così. La prima domanda, dopo il risultato delle elezioni, sebbene queste siano elezioni in regime di proporzionale pura, che hanno comportato, come dire, la formazione di maggioranze incerte, la domanda è quella: chi andrà al potere, Netanyahu o la Livni? Chi avrà la capacità di mettere insieme una coalizione? Dunque, se la risposta, Giuliano, si dovesse dare in base alla mera conta dei numeri, non c'è nessun dubbio che sarebbe Netanyahu, perché la coalizione che lui può mettere in piedi arriva fino a 65 seggi, mentre la coalizione di sinistra, che poi è di centro-sinistra, o che anzi direi che col calo delle sinistre come il Meretz e soprattutto come il Partito Laburista di Barak, insomma, sarebbe senz'altro una sinistra indebolita, ecco, e poi con la scelta evidente di Tzipi Livni di essere un personaggio di centro, un personaggio che può essere molto aperto nei confronti di un futuro rapporto con i palestinesi, anche ravvicinato, però nello stesso tempo che abbiamo visto che sa essere dura in tempi di pericolo, in tempi di guerra. Ecco. Quindi chiedo scusa Fiamma, per capirci, la parola passa al Presidente della Repubblica, Peres, il quale è in grave difficoltà in questo momento, perché ha da una parte questa sorpresa, che e poi lui stesso non ci dimentichiamo, vero che è un uomo di sinistra, è sempre stato un uomo di pace, affascinato quindi dalla prospettiva che la Livni riapre intanto di un buon rapporto con gli Stati Uniti, cosa che senz'altro ha giocato con gli Stati Uniti di Obama, che senz'altro ha giocato a suo favore. È un elemento che ha giocato fortemente, poi con questo suo carattere di donna che è aperta a ogni prospettiva di colloquio, di pace, eccetera. Quindi questo senz'altro affascinerà Peres, che peraltro dovrà stare a sentire le indicazioni dei partiti, perché la tecnica con cui il Presidente della Repubblica deve dare il mandato è questa: ascoltare le indicazioni dei partiti e in base al maggior numero di possibilità che si prospettano per l'uno o per l'altro candidato, quindi in questo caso per questi due vincitori che sono letteralmente testa a testa, scegliere il candidato possibile. Quindi molto dipende da Israel Beiteno, da quell'Avigdor Lieberman che tu hai disegnato prima, su cui ci sarebbero molte cose da dire, ma io ora le tralascio, perché Lieberman è un uomo che essendo stato il capo di gabinetto di Netanyahu ha con lui un rapporto complicato, e complicato perché Bibi è un tipo duro, diretto e è molto protagonista, quindi Lieberman sa che se anche può avere un buon posto in un governo di destra condotto da Netanyahu, pure sarà sempre un secondo e anche un terzo, insomma, dato che questa. Ecco, c'è una prospettiva che potrebbe scegliere Peres, quella di aiutare il paese ad avere un governo governo di coalizione, cosa, di larga coalizione, che mettesse insieme le due parti di questa mela perfettamente spaccata in due parti. Allora, fermiamoci un momento, perché altrimenti entriamo in quelle sindromi, sia pure in un contesto molto più drammatico, eccetera, che erano tipiche della politica nella Prima Repubblica in regime proporzionale, quando si poteva discutere a lungo di combinazioni, di alchimie parlamentari, perché no? L'idea è Peres magari dà l'incarico a Tsipi-Livni, ma Tsipi-Livni non riesce a fare un governo di grande coalizione. Penso che lo farà Netanyahu comunque. Appunto, adesso vedremo questo. Sì. Insomma, comunque, no, io giocherei una carta adesso, se siamo d'accordo. Ne parliamo anche con Umberto De Giovannangeli, che è in Israele, ci parla da Tel Aviv, credo. Giocherei una carta, diciamo, le novità che possono avere un effetto strategico sulla politica israeliana e su tutto il Medio Oriente, dunque sulla dinamica guerra-pace. La prima novità è questo Lieberman, che diventa decisivo per un governo Netanyahu. È un razzista, è un etnicista, è un uomo autoritario e reazionario di cui non ci si può fidare, che tradisce la convivenza multietnica, che chiede una specie di giuramento di lealtà allo Stato, agli arabi che ci vivono. È un uomo inquietante, e lo chiedo a Umberto De Giovannangeli, che il corrispondente da Israele, insomma, comunque un inviato in Israele dell'Unità, un uomo di sinistra. È questo Lieberman o è la solita, diciamo, grottesca caricatura in realtà, in relazione alla politica israeliana, questo fatto nuovo, quest'uomo che ha preso ben 15 seggi, Lieberman, l'ex capo di gabinetto di Netanyahu, è un'altra cosa. De Giovannangeli. Ma innanzitutto direi che è un politico abile e spregiudicato, quindi in quanto abile e spregiudicato può anche essere disposto ad operazioni, diciamo, tra virgolette trasformistiche. D'altra parte, ieri sera, quando si è presentato davanti ai suoi, non ha detto io appoggerò Netanyahu, ha detto saremo chiamati a fare delle scelte impegnative, si è lasciato tutte le porte aperte. Io ho avuto modo di seguire per un giorno la sua campagna elettorale e mi ha davvero colpito, innanzitutto perché è uno dei leader che va diritto al sodo, cioè non fa giri di parole. Quando parla degli arabi israeliani le definisce una comunità che deve, come dire, motivare e mostrare la propria fedeltà ad uno Stato di Israele, e aggiunge ebraico e sionista. Su Hamas ha detto, io ricordo, ero lì, diciamo, in un dibattito all'università di Tel Aviv, la Bar-Ilan University, agli studenti, che lui aveva una soluzione per risolvere la questione Hamas: buttare due bombe atomiche, come era stato fatto dagli americani a Nagasaki e a Hiroshima, tanto, aggiunto, Israele ne ha 400. Questi sono slogan che vanno dritto, diciamo, al cuore di una parte di elettorato che cerca, come dire, sicurezza in un paese. Beh, che mi pare che sia lo slogan del tutto irresponsabile, diciamo, anche dal punto di vista della sicurezza di Israele. È curioso che gli abbiano dato credito. Veramente ha detto questo in campagna elettorale? Questo l'ha detto, questa cosa delle bombe le ha dette in un dibattito all'università Bar-Ilan di Tel Aviv. Ma con un'inflessione paradossale, voglio dire, una battuta riuscita male o l'ha detta come un programma? No, devo dire che lui aveva detto in modo molto determinato, lui poi sa giocare con una grande abilità oratoria. La cosa che però mi ha colpito, Giuliano, è che il pubblico che lo ascoltava non è che abbia, diciamo così, reagito in modo, appunto, è una battuta oppure con fischi, insomma è quasi che quella proposta, tra virgolette, potesse entrare nell'ottica delle cose possibili. Insomma è un uomo che spregiudicatamente infuoca l'opinione pubblica. Nierenstein, lei condivide questo? Ma guarda, a me questa cosa delle bombe atomiche, a parte che io lì non c'ero, non l'ho sentita, però se lo dice il collega, è un collega molto attendibile, sarà certo vera, ma di sicuro non è questo il centro della questione. Lieberman, se l'ha detto, ha fatto in un momento di cretineria totale, ecco, e di nervosismo, non so che cosa, esaltato, però il suo punto vero è questo. Dunque lui ha visto soprattutto durante la guerra del Libano, quando Hazmi Bishara, uno dei deputati arabi più importanti, un intellettuale che io conosco benissimo personalmente, un individuo molto importante nell'ambito della pubblica opinione araba, si recò prima in visita in Siria e disse lì delle cose molto infiammatorie nei confronti di Israele che furono condivise da tutta la comunità araba, e dopo è addirittura sospettato e sotto inchiesta, infatti è scappato e non è più nell'area di Israele, di avere mandato addirittura a Nasrallah delle mappe per poter colpire intorno a Haifa. Ecco, intorno a questo, dopo, preso coraggio, si è fatto avanti un movimento arabo-israeliano anti-israeliano molto acuto, che si è espresso, non di tutti gli arabi israeliani, e che si è espresso su due strade: una, quella di una scelta islamista che ha formato addirittura un partito importante fra gli arabi israeliani, un movimento importante, e l'altra invece un movimento nazionalista che nega che nega lo Stato di Israele, e questo che nega il diritto all'esistenza dello Stato di Israele, e questo, diciamo così, ha creato paura, ha creato preoccupazione. Vabbè. Perché una cosa è avere l'intifada che viene dall'West Bank, una cosa è avere i missili che piovono da Gaza, un'altra cosa è vivere fianco a fianco, giorno dopo giorno, con un milione di arabi israeliani che possono diventare una fonte di turbolenza e di terrorismo, come è già successo alcune volte. E che invece fino ad oggi sono stati però invece un pegno, diciamo, del pluralismo politico e del carattere autentico della democrazia israeliana, quindi bisognerebbe salvare quel rapporto, anche se mi rendo conto che naturalmente questo può essere un grave problema. Vorrei fare una domanda a Lucio Caracciolo, se è al telefono. Eccoci qua. Ecco, Lucio Caracciolo, buongiorno, è uno dei più grandi esperti, diciamo, di geopolitica, dedicato alla geopolitica e in genere alle relazioni internazionali, tutto il lavoro di Limes, che è insieme un gruppo, un club e una rivista di analisi. Caracciolo, io ho sentito in chiacchiere varie, diciamo, tra fonti attendibili, autorevoli, che discutono la politica israeliana e la situazione medio orientale, ho sentito molto forte il desiderio di un governo o di unità nazionale o comunque di un asse Netanyahu-Barak. Cioè, Israele non può permettersi formule di governabilità dimezzata. Deve costituire in questa fase, con il nucleare iraniano in ballo, con Hamas colpita ma non distrutta a Gaza, con le conseguenze della guerra del Libano e della guerra di Gaza, insomma, in questa prospettiva dura, difficile, in cui bisognerebbe riaprire le trattative reali, insomma, la roadmap con e col nuovo potere americano di fronte, non può permettersi di avere un potere dimezzato. Quindi devono fare il massimo della concentrazione politica di potere al governo del paese dopo queste elezioni. Sì, è una logica forse un po' troppo cartesiana per Israele e il Medio Oriente, ma che esprime la questione di fondo, cioè Israele ha bisogno del sostegno esplicito e strategico degli Stati Uniti per essere veramente sicuro. Senza questo rapporto vitale che si è creato negli anni, perché non era affatto scontato e ha avuto anche molti alti e bassi tra Washington e Gerusalemme, Israele non può essere sicuro. Solo che adesso a Washington non c'è più Bush, che sostanzialmente si identificava con la posizione israeliana, ma c'è Obama, che ha una posizione un po' più pragmatica e non ha anche lesinato in campagna elettorale alcune critiche anche esplicite alla destra israeliana. Quindi come in qualche modo garantire questo rapporto senza naturalmente rinunciare ai propri interessi nazionali? Credo che Israele abbia dimostrato anche durante la guerra di Gaza conti il rapporto con gli Stati Uniti, nel senso che la guerra di Gaza è avvenuta non a caso nel periodo di transizione, quando Bush non contava praticamente più nulla e quando Obama non era ancora presidente, ed è finita, e anche questo credo che non sia un caso, qualche giorno prima dell'insediamento di Obama. Ora, se Obama avrà un'influenza, io credo che avrà, nella formazione del prossimo governo, chiaramente spingerà per un governo del tipo di quello che tu evocavi, cioè un governo che sia fondato sui tre grandi partiti storici e forse magari anche imbarcando lo stesso Lieberman, cioè sui laburisti, sul Likud, sul nuovo partito Kadima, e poi chi ci sta ci sta. questo governo avrebbe evidentemente una capacità di rappresentare in qualche modo l'intero spettro politico e sociale israeliano e di essere un interlocutore credibile per gli Stati Uniti. Ma appunto forse è un po' troppo logico. Cartesiano per gli rigori israeliani, della politica israeliana. Va bene, una breve interruzione per la pubblicità e poi ricominciamo. Vi ricordo 800 24 00 24. L'argomento non è tecnico, non è politologico, è una questione che riguarda la pace e la guerra. Stiamo ricevendo già molte telefonate. 800 24 00 24. Stiamo parlando del destino del Medio Oriente, elezioni politiche in Israele, la vittoria di misura per un seggio solo, maggioranza relativa a Tzipi Livni, la centrista, incalza Netanyahu a un seggio di distanza, la maggioranza effettiva possibile è di centrodestra. La nostra ospite Nirenstein dice: Peres sceglierà Netanyahu perché è l'unico in grado di mettere insieme una coalizione di maggioranza alla Knesset. Intanto a Kabul dramma e tragedia. Un attacco plurimo alla vigilia della visita di Richard Holbrooke, l'inviato di Obama. Kabul è la capitale dell'Afghanistan, insomma stiamo parlando del Medio Oriente allargato, del più grande problema geopolitico di questo inizio secolo. A Kabul i talebani, attacchi kamikaze plurimi nei vari ministeri, hanno sfiorato anche l'entrata meridionale del palazzo presidenziale di Hamid Karzai. Insomma, situazione molto tragica e confusa, molti morti, gli attacchi kamikaze come sapete si fanno con esplosivi, quindi non sono caramelle, e tra poco nei prossimi giornali radio, se ci sono nuovi aggiornamenti d'agenzie, le ultime notizie. Nirenstein, un governo Netanyahu-Barak le piacerebbe? Moltissimo. Io devo dire la verità che il fascino di questi due leader insieme, che forse lei ricorderà sull'ala dell'aereo Sabena quando erano insieme nella Sayeret Matkal, cioè nell'unità speciale di salvataggio dagli atti di terrorismo, erano insieme in questa unità, Barak era il comandante, e c'è questa foto famosa in cui si vedono i due che stanno per saltare dentro l'aereo a liberare gli ostaggi, tutte e due insieme. Io forse un po' romanticamente, ma penso che i due siano veramente una fortuna per Israele, due leader relativamente giovani, con una visione diversa del mondo, tutte e due molto determinati, con una formazione adatta alla situazione attuale di Israele così minacciata dall'Iran e dalla bomba in preparazione e dai suoi alleati, fra cui Hamas. Ecco, io penso che sarebbe una buona cosa. Sì? E De Giovannangeli cosa pensa di questa ipotesi? Beh, penso che sarebbe il suicidio del partito laburista. Ieri io ero nel quartier generale dell'Abur. Barak è stato accolto, come dire, da un timido applauso. Lui, da grande combattente, ha detto: io servo da quando avevo 17 anni e mezzo, il mio paese continuerà a farlo. Ma già lì, in quel teatro, diciamo, molto mesto, già si stava mettendo in scena una possibile spaccatura nell'Abur, perché una parte di quelli che erano stati eletti già dicevano: noi possiamo salvare il partito, la nostra storia, la nostra identità, solo se ricostruiamo poi tutto questo dall'opposizione. Ora capisco l'emergenza nazionale, ma non dimentichiamoci che Israele avrà a che fare da qui a poco tempo non solo con l'emergenza sicurezza, ma anche con una crisi economica devastante. E allora su quel piano il Labour quale politica potrebbe sostenere di un governo guidato magari da Netanyahu, che quando fu ministro delle finanze portò avanti una liberalizzazione, come dire, frenata, selvaggia, che lo portò a uno scontro frontale con l'Istradutte, cioè con il sindacato, che è l'unico pezzo, diciamo così, di identità organizzata che ancora rimane al partito laburista. Sì, naturalmente la politica economica è importante, ma è sempre la sicurezza, De Giovannangeli, su questo lei converrà, che siamo la regina della politica israeliana, o no? Sì, stiamo parlando però di un paese dove negli ultimi tempi c'è stata una crisi economico-sociale devastante, il numero delle famiglie, questo se ne è parlato poco in campagna elettorale, Giuliano, e il presidente Peres lo ha anche sottolineato questo. Ora capisco l'emergenza, ma in cui stiamo parlando, io qualche giorno fa ero alla periferia, una delle periferie di Tel Aviv, beh, il degrado sociale è arrivato a dei punti molto alti. Un partito come il partito laburista, che ha ancora dei legami, per quanto ormai frammentati, sì, con pezzi di questa società, non può lasciarli andare. Molta gente si chiede, adesso ne parliamo con Antonio da Roma, ma di fronte alla stanchezza del progetto Due Popoli, Due Stati, Due Popoli, Due Stati, Due Democrazie, alla difficoltà estrema di costruire le condizioni di un confine interno, diciamo, nelle terre che vanno dal Giordano al mare, in cui convivano palestinesi e israeliani, molta gente si chiede quello che si chiede Antonio da Roma. Antonio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Lei, direttore, ha sintetizzato molto bene il mio pensiero. Io, per la mia piccola esperienza che ho avuto di Israele, vedendo le difficoltà che ci sono tra la gente, tra gli ebrei e gli arabi, ma al tempo stesso vedendo come ebrei e arabi convivano, perché mi sembra che poi tutto sommato la gente normale ci convive, se non sbaglio, anche abbastanza bene. Io ho cercato di un po' di documentarmi nel mio piccolo, di risalire a monte all'inizio, ma non c'è mai un inizio di questo conflitto, perché l'inizio è sempre più lontano, è sempre più antico. Quello che lei dice, visto che riescono a convivere ebrei e arabi in Israele e non riescono invece a convivere sul piano della formazione di due stati autonomi, perché lo Stato palestinese non nasce, perché non provare uno Stato, questa è la sua idea, no? Multiculturale, no? Culturale, ma diciamo come è avvenuto in Italia per l'Alto Adige, come è avvenuto in Irlanda, come è avvenuto in tante altre nazioni. Grazie Antonio, sgombriamo il campo da questa cosa. Ogni tanto viene fuori, per esempio a sinistra c'è un certo... però gli israeliani, molti israeliani, la maggioranza degli israeliani replicano: ma questa è l'eliminazione di Israele, voi volete allora disconoscere il processo che dal 48 in avanti ha portato alla nascita, al consolidamento e alla disperata lotta per l'esistenza con la sua identità dello Stato israeliano. Che ne pensa Caracciolo? Può succedere che ritorni ad avere una qualche plausibilità politica l'idea di superare il contrasto fra Israele e l'ipotetico Stato palestinese, l'idea di costruire una situazione multiculturale che comprenda arabi e israeliani in quel territorio? Mi pare proprio che ne manchino le premesse di fondo. C'è una sfiducia da parte israeliana, o meglio ebraico-israeliana, nei confronti dei propri arabi, insomma dei palestinesi che vivono da una parte o dall'altra nel territorio tra il fiume Giordano e il Mediterraneo, e naturalmente c'è risentimento e sfiducia anche da parte arabo-palestinese. È una vecchia idea, ne parlava Gheddafi qualche tempo fa, l'israstina, cioè una sorta di ibrido che mettesse insieme il progetto sionista e il progetto palestinese. Insomma, è fuori dall'orizzonte del realismo. Mi pare che sia, diciamo, forse un'utopia che potrà realizzarsi fra qualche secolo, ma non mi pare che sia attuale. Un altro grande problema è questo: chi fa la pace? La pace la fanno i buoni o i cattivi? Mettiamola così, diciamo, semplificando naturalmente. Netanyahu è il duro. E molta gente spera che laddove potrebbe fallire, ma non si sa, insomma, ha una personalità, è una leader emergente molto, molto seria. Poi gli israeliani anche hanno il ricordo di Golda Meir, insomma, una donna a capo del governo evoca quella straordinaria figura, insomma, quella straordinaria personalità. Ecco. I cattivi o i buoni fanno la pace? La destra israeliana, vuol dire per esempio Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore, che è un osservatore con un suo orientamento naturalmente, ma molto, molto acuto, molto attento di quello che succede in Israele, dice niente, la Livni vuol dire che si ricomincia a discutere di pace, e Netanyahu significa rinviare alle prossime generazioni. Cioè, chi votava Bibi sceglieva, dice Tramballi oggi, di congelare quel tragitto, il tragitto di pace, e di rinviare uno Stato palestinese a un'altra generazione con i rischi di una nuova intifada che questo comporta. Ecco, Nirenstein, è vero che con la Livni si riparla di pace e con Netanyahu, anche con un governo Netanyahu-Barak che a lei piaceva molto in ipotesi, alla pace si dà l'addio per almeno una generazione? Guardi, io rispondo alla sua prima domanda, quella chi fa la pace, i buoni o i cattivi? La risposta è la pace la fanno gli arabi, la pace la fanno i palestinesi. Infatti, quando Begin decise che avrebbe fatto questa enorme concessione territoriale di tutto quanto il Sinai nelle mani di Sadat, Sadat disse di sì e la cosa andò benissimo. Più avanti invece fu Rabin, che invece era di sinistra, che fece la pace con la Giordania basandosi su degli scambi territoriali sull'Arava. Più avanti però la storia ci dice, e questo è evidente a tutti, che in una serie di altre circostanze, la più recente della quale è quella dell'abbandono completo di Gaza da parte di Sharon, quando c'è stata invece una volontà estremista o di carattere integralista islamico, oppure oppure il famoso rifiuto arabo di cui parleremo un'altra volta, va bene, ma che ha fatto sì che anche le più importanti decisioni come per esempio quella di Barak seguita all'accordo di Oslo di concedere tutto il territorio richiesto più metà di Gerusalemme non sono state accettate, in questi casi qui la pace non si fa. Allora, diciamo pure questo, la Livni senz'altro è più disponibile di Netanyahu ad essere meno prudente, diciamo così, per cui sarà più pronta per esempio a cessare la costruzione anche di quella parte degli insediamenti che per esempio ha a che fare con la crescita naturale degli insediamenti, mentre è possibile che Netanyahu questo non lo conceda, così come ha detto che è pronta ad aprirsi su Gerusalemme e sul Golan, e anche qui Netanyahu invece ha detto che non lo farà. Però si sa benissimo, come diceva Sharon, che lo diceva in ebraico, Masheroim Misham Loroim Mikan, quello che si vede di là non si vede di qua, e con questo voleva dire che quando sei primo ministro devi essere pronto alle concessioni, devi essere pronto alle occasioni. Quindi io penso che i due si equivalgono da questo punto di vista. Si equivalgono da questo punto di vista. Bene, vorrei parlare con Said da Ferrara, che proprio su questo voleva intervenire. Said? Sì, buongiorno. Buongiorno. Signor Ferrara, buongiorno, mi senti? Sì, certo. Senta, io premetto di essere un arabo venendo dal Marocco, che noi, lei lo sa benissimo, lo sanno tutti, che noi con gli ebrei non abbiamo niente da fare, da dire, perché noi conviviamo in pace in una comunità tra ebrei e marocchini, che arabi e musulmani, che non abbiamo nessun problema. Merito della dinastia almoravide. Esatto. Quindi noi contro gli ebrei, io penso che tutti gli arabi e musulmani non hanno niente da dire, però il problema è lo Stato di Israele, quindi la mia domanda sarebbe verso questo senso qua. Noi siamo molto preoccupati per cosa lì alla luce dei risultati delle elezioni israeliane. Perché? Perché se succede che Netanyahu avrà il carico di formare un governo di destra e magari aliandosi con l'estrema destra di Lieberman, che è una cosa non è da escludere, quindi qui avremo una politica molto estremista che non vuol sapere niente dei palestinesi e di concedere l'indipendenza cedere territori occupati dal 1967. E dall'altra parte abbiamo Hamas che dice che non vuole riconoscere Israele, dall'altra parte avremo la destra estremista che non vuole riconoscere i palestinesi, e non lo so dove andremo a finire con questo processo di pace. Ho capito, previsioni cupe di Said da Ferrara, ma è veramente l'uomo nero Netanyahu? De Giovannangeli, ci dia una qualche parola di rassicurazione, lei che scrive su Unità e che osserva da un punto di vista. Penso di conoscerlo perché faccio un po' di pubblicità. Tra l'altro lei l'ha intervistato. No, non solo l'ho intervistato, ma ho scritto un libro su di lui quando andò nel 1996 a divenne primo ministro, diciamo, si intitolava L'Enigma Netanyahu, il titolo è profetico perché anche oggi Benjamin Netanyahu è un enigma. Lui è un politico abile, spregiudicato, che anche dal punto di vista dei suoi costumi personali, insomma, è uno che si allea con la destra ultrareligiosa, ma ad esempio nella sua vita intima ha avuto diverse mogli, cioè una condotta diciamo molto laica, quindi è un leader. Adesso avere, adesso avere diverse mogli è diventato una specie di patente, dice quello è una persona per bene, c'ha molte mogli. Io mi dicono che sono razzingheriano, bigotto, devoto, ha avuto molte mogli, quindi ci possiamo fidare di lui. No, anche diciamo una vita sentimentale molto ricca. Sì, no, ma questo, ma ho capito benissimo, stavo scherzando naturalmente. Andare d'accordo, diciamo. Però è anche quello che ha ritirato Israele da Hebron, non dimentichiamo, certo, cioè, applicando una parte degli accordi di Oslo. Quindi da questo punto di vista lui sente molto, lui è stato chiamato l'americano, non solo perché parla benissimo appunto la lingua, ma anche perché è molto attento a ciò che si muove negli Stati Uniti. La mia preoccupazione è però un'altra, appunto, è quello della coalizione, quello verso cui tenderà, perché è vero, Giuliano, cioè noi stiamo parlando di un paese in trincea, tu hai usato una definizione, una metafora importante, un paese guarnigione, anche se bisogna dire in onore di Israele che è una società militarizzata ma non ha una cultura militarista da questo punto di vista. No, sono dei gaudenti terribili, figuriamoci. Bene, no, benissimo, è un'altra... Ecco, appunto, da questo punto di vista è una speranza, però io ho assistito in questa campagna elettorale anche a una forte radicalizzazione ideologica, cioè quella parte di destra con cui Netanyahu potrebbe fare numericamente un governo, beh, insomma innesta sull'insicurezza dell'opinione pubblica anche un'ideologia che è un'ideologia fortemente aggressiva, fortemente, diciamo così, radicalizzata, dove l'elemento centrale non è tanto da sullo Stato di Israele, ma quanto sulla terra di Israele, su Eretz Israele. Ecco, Devo... su questo innesto ideologico io credo che anche un pragmatico come Netanyahu farebbe fatica. Sì. Bene, 800 24 00 24, parliamo di Israele. L'ultimo numero di Limes, il primo del 2009, Limes. È un nome latino, è una rivista italiana di geopolitica specialistica, ma scritta molto bene. È introdotto da un editoriale, voglio rimproverare qui il suo direttore Lucio Caracciolo, di tremendo pessimismo. Basato, il titolo del fascicolo è Il buio oltre Gaza, c'è anche un articolo del nostro ospite Umberto De Giovannangeli, ma il pessimismo è veramente cupo ed è basato su questo fatto: quando un ebreo israeliano, è scritto a pagina 8, dice Israele, o un arabo palestinese dice Palestina, pensa lo stesso spazio. Sicché la retorica dei due stati naufraga sempre e continuativamente sulle cataratte della realtà. Insomma, pessimismo forte sulla possibilità di rendere realistico, pratico, concreto il cammino verso la convivenza in quell'area pacifica tra le due etnie, tra i due popoli. E, insomma, Caracciolo, non c'è proprio nessuna speranza. Dobbiamo aprire questo anno con analisi così. Ma grazie intanto della citazione, che però non è mia ma è di uno storico israeliano, sì, Dan Diner, certo. Sì, che è un grande storico israeliano, sì, che parla appunto di questa sorta di rifiuto reciproco, ma io penso che ad oggi le cose stiano così, poi naturalmente in Terra Santa i miracoli possono sempre accadere. Ma francamente chiunque governi Israele non farà della questione palestinese la sua priorità, di questo mi sento abbastanza sicuro, nel senso che oggi la priorità di sicurezza israeliana non sono certamente gli arabi palestinesi ma è l'Iran, e tutto quanto riguarda la sicurezza oggi in Israele ruota intorno alla questione Iran. Quindi semmai la questione sarà di capire che cosa significherà, semmai si aprirà il dialogo fra Stati Uniti ed Iran per Israele, questo negoziato che potrebbe aprirsi all'orizzonte fra americani e iraniani. Questo è al momento il grosso interrogativo. Non certo la pace con i palestinesi, anche per una ragione molto semplice, non c'è con chi fare la pace. Purtroppo il vostro pessimismo, grazie, è condiviso dai nostri ascoltatori, adesso non possiamo sentirli tutti, ma Pierluigi da Brescia dice che non è possibile avere uno Stato Unito, non ci si riuscirà mai. Idris da Treviso ricorda i 400 bambini uccisi nel corso della guerra di Gaza e dice di questo bisognerebbe parlare, quindi ci richiama a un simbolo tragico della divisione e del contrasto. Sirio da Como dice Israele si deve preoccupare per un'asse militare Pakistan e Iran, confermando che le cose appena detto adesso da Caracciolo, dallo specialista Caracciolo, cioè che insomma è poi lì il vero cuore della questione. Nirenstein, anche lei è pessimista in questo modo feroce sul futuro? Beh, insomma, diciamo questo, io sono pessimista e penso però che qualcosa da fare ci sia. Penso che nel corso di questi anni quello che è cresciuto non è soltanto l'Iran, ma l'influenza terrificante dell'ideologia religiosa nell'ambito del mondo arabo-palestinese, e questa nega non solo la presenza di Israele nell'area, ma anche l'esistenza stessa degli ebrei. Basta guardare alla carta di Hamas per rendersene conto. Che cosa si può fare? Quello che si può fare è cercare di aiutare perlomeno, prima di tutto appunto mettere in atto una serie di misure di sicurezza sulle quali ora è complesso entrare, ma che senz'altro rendono il mondo più sicuro, più tranquillo, e anche il conflitto israelo-palestinese. Vede, per esempio, se non fossero entrate tutte le armi che sono entrate a Gaza, già non si sarebbe avuta questa situazione. Se gli Hezbollah non avessero ricevuto dall'Iran di nuovo una fornitura di missili gigantesca tramite la Siria, non si sarebbe di nuovo, certo, il pericolo di guerra. È la guerra per conto terzi, no? Sì, esatto, terribile. Quindi questa cosa, già quando si dice aiuto alla guerra, si farebbe bene sempre a pensare come si può evitare da un punto di vista pratico una cosa di questo genere. Quanto alla prospettiva, io penso per esempio che la società palestinese abbia tutto l'interesse e il desiderio di costruirsi, ovvero di fondare il curriculum delle sue scuole su una strada più moderna, in cui non ci sia tanto posto per l'odio, ma ci sia invece più posto per una prospettiva in cui fiorisca la scienza, la cultura, la musica. Musica. Ecco, e questo noi potremmo essere anche di grande aiuto. Possiamo pensare che il sistema giudiziario, il sistema parlamentare, la basic law, che pure i palestinesi si sono dati in una forma molto onorevole, ecco, negli anni passati, che non è mai stato realizzato per la corruzione, per lo scontro fra milizie che distrugge. E naturalmente bisogna superare anche questa situazione tragica di stallo che deriva anche dai 600. A poter fare la pace. Fare la pace. È un po' un cane che si morde la coda, nel senso che poi c'è la realtà dei 600 posti di blocco, c'è la realtà, no? Questo è un fatto obiettivo. Vedo che i 600 posti di blocco sono legati a una situazione di sicurezza, se non ci fossero. Sì, no, ma voglio dire, i palestinesi devono emanciparsi dall'attaccamento a una concezione, sì, appunto di odio politico anti-Israele, per costruire una classe dirigente degna di dirigere uno Stato in condizioni di pace e di sicurezza per tutti i soggetti. Però contemporaneamente emanciparsi da questo in regime di occupazione è difficile. Un cane, diciamo, che si morde. Per esempio la loro polizia è molto cresciuta, è migliorata, è stata molto aiutata sia dagli Stati Uniti, certo, che dall'Europa, certo, anche, che ha mandato istruttori, sia da Israele, che ha mandato un sacco di istruttori e di aiuti. Quindi, avendo una polizia, di fatto la provenienza da parte del West Bank di terroristi è molto diminuita. Infatti, certo, nei confronti del West Bank c'è un atteggiamento diverso da parte di Israele. Passi nella direzione giusta, speriamo bene. Intanto vi ricordo, ringraziando Caracciolo, ringraziando Nierenstein e Giovannangeli, che è scaduto il mandato di Abu Mazen. È scaduto il suo mandato e quindi la palla, diciamo, poi tornerà rapidamente nel campo palestinese, dove esistono due poteri: il potere di Hamas nella striscia e il potere di Fatah e di Abu Mazen, il presidente è scaduto nei territori. Staremo a vedere, grazie a tutti. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei, linea Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A domani.